20 gennaio. Giunse l'alba ed ero io di turno per l'accensione della stufa. Oltre alla debolezza generale, le articolazioni dolenti mi ricordavano ogni momento che la mia scarlatina era lungi dall'essere scomparsa. Il pensiero di dovermi tuffare nell'aria gelida in cerca di fuoco per le altre baracche mi faceva tremare di ribrezzo. Mi rammentai delle pietrine, cosparsi di spirito un foglietto di carta e con pazienza, da una pietrina, vi raschiai sopra un mucchietto di polvere nera. Poi presi a raschiare più forte la pietrina col coltello ed ecco, dopo qualche scintilla, il mucchietto deflagrò e dalla carta si levò la fiammella pallida dell'alcol. Arthur discese entusiasta dal letto e fece scaldare 3 patate a testa fra quelle bollite il giorno avanti. Dopodiché, affamati e pieni di brividi, Charles ed io partimmo nuovamente in perlustrazione per il campo in sfacelo. Ci restavano viveri, e cioè patate, per 2 giorni soltanto. Per l'acqua eravamo ridotti a fondere la neve, operazione penosa per la mancanza di grandi recipienti, da cui si otteneva un liquido nerastro e turbido che era necessario filtrare. Il campo era silenzioso. Altri spettri affamati si aggiravano come noi in esplorazione. Barbe ormai lunghe, occhi incavati, membra scheletrite e giallastre fra i cenci. Malfermi sulle gambe, entravano e uscivano dalle baracche deserte, asportando negli oggetti più vari, scuri, secchi, mestoli, chiodi. Tutto poteva servire, e i più lungimiranti già meditavano fruttuosi mercati con i polacchi della campagna circostante. Nella cucina, 2 si accapigliavano per le ultime decine di patate putride. Si erano afferrati per gli stracci e si percuotevano con curiosi gesti lenti e incerti, vituperandosi in yiddish fra le labbra gelate. Nel cortile del magazzino stavano 2 grandi mucchi di cavoli e di rape, le grosse rape insipide, base della nostra alimentazione. Erano così gelati che non si potevano staccare se non col piccone. Charles ed io ci avvicendammo, tendendo tutte le nostre energie per ogni colpo, e ne estraemmo una 50 di chili. Vi fu anche altro. Charles trovò un pacco di sale e, une fameuse trouvaille, un bidone d'acqua di forse mezzo ettolitro, allo stato di ghiaccio massiccio. Caricammo ogni cosa su di un carrettino, servivano prima per distribuire il rancio alle baracche, ve n'era un gran numero abbandonati ovunque, e rientrammo spingendolo faticosamente sulla neve. Per quel giorno ci accontentammo ancora di patate bollite e fette di rapa arrostite sulla stufa, ma per l'indomani Arthur ci promise importanti innovazioni. Nel pomeriggio andai all'ex ambulatorio in cerca di qualcosa di utile. Ero stato preceduto. Tutto era stato manomesso da saccheggiatori inesperti. Non più una bottiglia intera. Sul pavimento uno strato di stracci, sterco e materiale di medicazione. Un cadavere, nudo e contorto. Ma ecco qualcosa che ai miei predecessori era sfuggito. Una batteria da autocarro. Toccai i poli col coltello. Una piccola scintilla. Era carica. A sera la nostra camera aveva luce. Stando a letto, vedevo dalla finestra un lungo tratto di strada. Vi passava a ondate già da 3 giorni la Wehrmacht in fuga. Autoblinde, carri tigre mimetizzati in bianco, tedeschi a cavallo, tedeschi in bicicletta, tedeschi a piedi, armati e disarmati. Si udiva nella notte il fracasso dei cingoli molto prima che i carri fossero visibili. Chiedeva a Charles: «Ça roule encore?» «Ça roule toujours?» Sembrava non dovesse mai finire. ...21 gennaio. Invece finì. Con l'alba del 21 la pianura ci apparve deserta e rigida, bianca, a perdita d'occhio sotto il volo dei corvi, mortalmente triste. Avrei quasi preferito vedere ancora qualcosa in movimento. Anche i civili polacchi erano scomparsi, appiattati chissà dove. Pareva che perfino il vento si fosse arrestato. Avrei desiderato una cosa soltanto: restare a letto, sotto le coperte, abbandonarmi alla stanchezza totale dei muscoli, nervi. volontà. Aspettare che finisse o che non finisse era la stessa cosa, come un morto. Ma già Charles aveva acceso la stufa, l'uomo Charles Lacre, fiducioso e amico, e mi chiamava al lavoro. «Vas-y, primo, descends-toi de là-haut, il y a Jules à attraper par les oreilles». Jules era il secchio della latrina, che ogni mattina bisognava afferrare per i manici, portare all'esterno e rovesciare nel pozzo nero. Era questa la prima bisogna della giornata, e se si pensa che non era possibile lavarsi le mani e che tre dei nostri erano ammalati di tifo, si comprende che non era un lavoro gradevole. Dovevamo inaugurare i cavoli e le rape. Mentre io andavo a cercare legna e Charles a raccogliere neve da sciogliere, Arthur mobilitò i malati che potevano star seduti perché collaborassero nella mondatura. Tovaroski, Sertlet, Alcalè e Schenck risposero all'appello. Anche Sertlet era un contadino dei Vosgi di 20 anni. Pareva in buone condizioni, ma di giorno in giorno la sua voce andava assumendo un sinistro timbro nasale, a ricordarci che la difterite raramente perdona. Alcalè era un vetraio ebreo di Tolosa. Era molto tranquillo e assennato. Soffriva di risipola al viso. Schenck era un commerciante slovacco ebreo, convalescente di tifo, aveva un formidabile appetito. Così pure Tovaroski, ebreo franco-polacco, sciocco e ciarliero, ma utile alla nostra comunità per il suo comunicativo ottimismo. Mentre dunque i malati lavoravano di coltello, ciascuno seduto sulla sua cuccetta, Charles ed io ci dedicammo alla ricerca di una sede possibile per le operazioni di cucina. Una indescrivibile sporcizia aveva invaso ogni reparto del campo, colmate tutte le latrine, della cui manutenzione naturalmente nessuno più si curava, i dissenterici, erano più di un centinaio, avevano insozzato ogni angolo del cabé, riempito tutti i secchi, tutti i bidoni già destinati al rancio, tutte le gamelle. Non si poteva muovere un passo senza sorvegliare il piede, al buio era impossibile spostarsi. Pur soffrendo per il freddo, che si manteneva acuto, pensavamo con raccapriccio a quello che sarebbe accaduto se fosse sopraggiunto il disgelo. Le infezioni avrebbero dilagato senza riparo, il fetore si sarebbe fatto soffocante, e inoltre, sciolta la neve, saremmo rimasti definitivamente senza acqua. Dopo una lunga ricerca, trovammo infine in un locale già adibito a lavatoio pochi palmi di pavimento non eccessivamente imbrattato. Vi accendemmo un fuoco vivo, poi, per risparmiare tempo e complicazioni, ci disinfettammo le mani frizionandole con cloramina mista a neve. La notizia che una zuppa era in cottura si sparse rapidamente fra la folla dei semivivi. Si formò sulla porta un assembramento di visi famelici. Charles, il mestolo levato, tenne loro un vigoroso breve discorso che, pur essendo in francese, non abbisognava di traduzione. I più si dispersero, ma uno si fece avanti. Era un parigino, sarto di classe, diceva lui, ammalato di polmoni. In cambio di un litro di zuppa si sarebbe messo a nostra disposizione per tagliarci abiti dalle numerose coperte rimaste in campo. Maxime si dimostrò veramente abile. Il giorno dopo Charles ed io possedevamo giacca, brache e guantoni di ruvido tessuto a colori vistosi. A sera, dopo la prima zuppa distribuita con entusiasmo e divorata con avidità, il grande silenzio della pianura fu rotto. Dalle nostre cuccette, troppo stanchi per essere profondamente inquieti, tendevamo l'orecchio agli scoppi di misteriose artiglierie che parevano localizzate in tutti i punti dell'orizzonte, e ai sibili dei proiettili sui nostri capi. Io pensavo che la vita fuori era bella, e sarebbe ancora stata bella, e sarebbe stato veramente un peccato lasciarsi sommergere adesso. Svegliai quelli tra i malati che sonnecchiavano, e quando fui sicuro che tutti ascoltavano, dissi loro, in francese prima, nel mio migliore tedesco poi, che tutti dovevano pensare ormai di ritornare a casa, e che, per quanto dipendeva da noi, alcune cose era necessario fare, altre necessario evitare, che ognuno conservasse attentamente la sua propria gamella e il cucchiaio, che nessuno offrisse ad altri la zuppa che eventualmente gli fosse avanzata, nessuno scendesse dal letto se non per andare alla latrina, chi avesse bisogno di un qualsiasi servizio non si rivolgesse ad altri che a noi tre. Arthur particolarmente era incaricato di vigilare sulla disciplina e sull'igiene e doveva ricordare che era meglio lasciare gamelle e cucchiai sporchi piuttosto che lavarli, col pericolo di scambiare quelli di un difterico con quelli di un tifoso. Ebbi l'impressione che i malati fossero ormai troppo indifferenti a ogni cosa per curarsi di quanto avevo detto, ma avevo molta fiducia nella diligenza di Arthur. Due gennaio. Se è coraggioso chi affronta a cuor leggero un grave pericolo, Charles ed io quel mattino fummo coraggiosi. Estendemmo le nostre operazioni al campo delle SS, subito fuori del reticolato elettrico. Le guardie del campo dovevano essere partite con molta fretta. Trovammo sui tavoli piatti pieni per metà di minestra ormai congelata, che divorammo con intenso godimento. Boccali ancor colmi di birra, trasformata in ghiaccio giallastro, una scacchiera con una partita incominciata. Nelle camerate una quantità di roba preziosa. Ci caricammo una bottiglia di vodka, medicinali vari, giornali e riviste e quattro ottime coperte imbottite, una delle quali è oggi nella mia casa di Torino. Lieti e incoscienti, riportammo nella cameretta il frutto della sortita, affidandolo all'amministrazione di Arthur. Solo a sera si seppe quanto era successo, forse mezz'ora più tardi. Alcune SS, forse disperse ma armate, penetrarono nel campo abbandonato. Trovarono che 18 francesi si erano stabiliti nel refettorio della SS Waffe. Li uccisero tutti metodicamente con un colpo alla nuca, allineando poi i corpi contorti sulla neve della strada. Indi se ne andarono. I 18 cadaveri restarono esposti fino all'arrivo dei russi. Nessuno ebbe la forza di dar loro sepoltura. D'altronde, in tutte le baracche v'erano ormai letti occupati da cadaveri, rigidi come legno, che nessuno si curava più di rimuovere. La terra era troppo gelata perché vi si potessero scavare fosse. Molti cadaveri furono accatastati in una trincea, ma già fin dai primi giorni il mucchio emergeva dallo scavo ed era torpemente visibile dalla nostra finestra. Solo una parete di legno ci separava dal reparto dei dissenterici. Qui molti erano i moribondi, molti i morti. Il pavimento era ricoperto da uno strato di escrementi congelati. Nessuno aveva più forza di uscire dalle coperte per cercare cibo, e chi prima lo aveva fatto non era ritornato a soccorrere i compagni. In uno stesso letto, avvinghiati per resistere meglio al freddo, proprio accanto alla parete divisoria, stavano due italiani. Li sentivo spesso parlare, ma poiché io invece non parlavo che francese, per molto tempo non si accorsero della mia presenza. Udirono quel giorno per caso il mio nome, pronunziato all'italiana da Charles, e da allora non smisero di gemere e di implorare. Naturalmente avrei voluto aiutarli, avendone i mezzi e la forza, se non altro per far smettere l'ossessione delle loro grida. A sera, quando tutti i lavori furono finiti, vincendo la fatica e il ribrezzo, mi trascinai a tentoni per il corridoio lercio e buio fino al loro reparto, con una gamella d'acqua e gli avanzi della nostra zuppa del giorno. Il risultato fu che da allora, attraverso la sottile parete, l'intera sezione di arrea chiamò giorno e notte il mio nome, con le inflessioni di tutte le lingue d'Europa, accompagnato da preghiere incomprensibili, senza che io potessi comunque porvi riparo. Mi sentivo prossimo a piangere. Li avrei maledetti. La notte riservò brutte sorprese. L'Hackmacher, della cuccetta sotto la mia, era uno sciagurato rottame umano. Era, ed era stato, un ebreo olandese di 17 anni, alto, magro e mite. Era in letto da 3 mesi, non so come fosse sfuggito alle selezioni. Aveva avuto successivamente il tifo e la scarlattina. Intanto gli si era palesato un grave vizio cardiaco ed era brutto di piaghe da decubito, tanto che non poteva ormai giacere che sul ventre. Con tutto ciò, un appetito feroce. Non parlava che olandese, nessuno di noi era in grado di comprenderlo. Forse causa di tutto fu la minestra di cavoli e rape, di cui l'Hackmaker aveva voluto 2 razioni. A metà notte gemette, poi si buttò dal letto. Cercava di raggiungere la latrina, ma era troppo debole e cadde a terra, piangendo e gridando forte. Charles accese la luce, l'accumulatore si dimostrò provvidenziale, e potemmo constatare la gravità dell'incidente. Il letto del ragazzo e il pavimento erano imbrattati. L'odore nel piccolo ambiente diventava rapidamente insopportabile. Non avevamo che una minima scorta d'acqua e non coperte né pagliericci di ricambio. E il poveretto, tifoso, era un terribile focolaio di infezione. Né si poteva certo lasciarlo tutta la notte sul pavimento a gemere e tremare di freddo in mezzo alla lordura. Charles discese dal letto e si rivestì in silenzio. Mentre io reggevo il lume, ritagliò col coltello dal pagliericcio e dalle coperte tutti i punti sporchi. Sollevò da terra l'Hackmaker con la delicatezza di una madre. Lo ripulì alla meglio con paglia estratta dal saccone e lo ripose di peso nel letto rifatto, nell'unica posizione in cui il disgraziato poteva giacere. Raschiò il pavimento con un pezzo di lamiera, stemperò un po' di cloramina e infine cosparse di disinfettante ogni cosa e anche se stesso. Io misuravo la sua abnegazione dalla stanchezza che avrei dovuto superare in me per fare quanto lui faceva. Il 23 gennaio. Le nostre patate erano finite. Circolava da giorni per le baracche la voce che un enorme silo di patate fosse situato da qualche parte, fuori del filo spinato, non lontano dal campo. Qualche pioniere ignorato deve aver fatto pazienti ricerche, o qualcuno doveva sapere con precisione il luogo. Di fatto, il mattino del 23, un tratto di filo spinato era stato abbattuto, e una doppia processione di miserabili usciva ed entrava dall'apertura. Charles ed io partimmo nel vento della pianura livida. Fummo oltre la barriera abbattuta. «Dis donc, primo, on est dehors!» Era così. Per la prima volta dal giorno del mio arresto, mi trovavo libero, senza custodi armati, senza reticolati fra me e la mia casa. A forse 400 metri dal campo giacevano le patate, un tesoro. 2 fosse lunghissime, piene di patate, e ricoperte di terra alternata con paglia, difesa dal gelo. Nessuno sarebbe più morto di fame. Ma l'estrazione non era lavoro da nulla. A causa del gelo, la superficie del terreno era dura, come marmo. Con duro lavoro di piccone si riusciva a perforare la crosta e a mettere a nudo il deposito, ma i più preferivano introdursi nei fori abbandonati da altri, spingendosi molto profondi e passando le patate ai compagni che stavano all'esterno. Un vecchio ungherese era stato sorpreso colà dalla morte. Giaceva irrigidito nel latto dell'affamato, capo e spalle sotto il cumulo di terra, il ventre nella neve, tendeva le mani alle patate. Chi venne dopo spostò il cadavere di 1 metro e riprese il lavoro attraverso l'apertura resasi libera. Da allora il nostro vitto migliorò. Oltre alle patate bollite e alla zuppa di patate, offrimmo ai nostri malati frittelle di patate, su ricetta di Arthur. Si raschiano patate crude con altre bollite e disfatte. La miscela si arrostisce su di una lamiera rovente. Avevano sapore di fuligine. Ma non ne poté godere Sertlè, il cui male progrediva. Oltre a parlare con timbro sempre più nasale, quel giorno non riuscì più a inghiottire a dovere alcun alimento. Qualcosa gli si era guastato in gola. Ogni boccone minacciava di soffocarlo. andai a cercare un medico ungherese rimasto come malato nella baracca di fronte. Come udì parlare di difterite, fece 3 passi indietro e mi ingiunse di uscire. Per pure ragioni di propaganda, feci a tutti installazioni nasali di olio canforato. Assicurai Sertlè che ne avrebbe tratto giovamento. Io stesso cercavo di convincermene.